Bologna, Modena, Reggio Emilia. Sono questi i comuni italiani che collaborano di più con gli 007 del fisco nel scovare gli evasori. E questa collaborazione sta dando i primi frutti. 30 milioni di euro in appena 2 anni recuperati, che andranno proprio a rimpinguare le casse di quelle città. Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Alcuni comuni che sono partiti in maniera anche forte, soprattutto per esempio nell'area dell'Emilia Romagna, della Lombardia e anche di altre regioni, ad oggi hanno complessivamente trasmesso oltre 20.000 segnalazioni. Abbiamo un recupero attraverso accertamenti di oltre 30 milioni di euro di maggiori imposte. Se ci abbiniamo a queste anche le sanzioni, arriviamo a 60 milioni di euro. E quello che è importante è sapere che il processo di partecipazione ai comuni fonda la sua peculiarità sul fatto che di quello che l'Agenzia delle Entrate riesce a incassare dalle segnalazioni, appunto trasformate in accertamento dai comuni, ai comuni spetta una quota parte. Se finora i comuni ricavavano il 33% delle imposte evase che avevano contribuito a rintracciare, da oggi, dopo la manovra di Ferragosto, a loro andrà il 100%, un incentivo a collaborare di più e una delle forme concrete di federalismo fiscale, perché grazie ai soldi che arrivano da chi non paga le tasse, ci saranno più servizi per tutti i cittadini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.